24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Buongiorno e ben svegliati, cari ascoltatori. Alle 6:33 minuti ci siamo anche oggi, ce l'abbiamo fatta. Siamo anche su Twitter 24 mattino, ci seguite così. Oppure Alino Milan, se volete, quello sono io. E che dire, c'è la nostra Elisabetta Fusconi, è tornata, è al di là del vetro. C'è il nostro Peter Bescapè in regia, il nostro alpino come di consueto. Che sono saracinesche. Vabbè, il nostro alpino doveva fare. Eccola qua, la saracinesca del nostro bar è aperta. Allora, sono già invitati tutti. Non rispondo a nessuna domanda. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. A tutti quanti oggi il caffè offre, come sempre, Nicole Minetti, come avete sentito. E oggi lo vogliamo offrire a due personaggi, beh, straordinari, sono con noi. Intanto saluto Paola Saluzzi, buongiorno e benvenuta. Ma buongiorno Alessandro, buongiorno finalmente con voi. Oh, che voce squillante, che bello, già sveglia dalle 4:30 immagino. Paola Saluzzi, che presenta su Sky TG24 pomeriggio dalle 15 alle 17 con noi oggi. E con noi anche oggi c'è Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno, la mia sarà decisamente meno squillante. Perché? Perché sveglio da 2 minuti, l'abbiamo sbrandato praticamente. Un pochino di più, dai. Un pochino di più. Allora, questo è la nostra moca, noi siamo un po' all'antica, abbiamo la moca. Che bello, è profumo. Ma sì, qua c'è tempo, non è che dobbiamo correre, siamo qui, vi fate la moca, tranquilli. Zucchero, quello che volete, dolcificante, zucchero di canna, abbiamo tutto. Allora. Saluto il direttore Alessandro. Saluto eccoci. Il direttore Luca. Buongiorno certo. Paola. Allora, io vi voglio far parlare subito della crisi, così ci deprimiamo tutti. Ieri, siccome sono arrivati i giornali, tra poco vi leggo qualche titolo. Sentite che cosa ha detto Mario Monti, il presidente del Consiglio. Io penso che in parte le nostre decisioni abbiano contribuito ad aggravare la situazione congiunturale italiana, ma naturalmente è solo in questo modo che si può avere qualche speranza, un pochino più in là, di avere risanato in modo durevole la situazione. Allora, così ha detto Mario Monti. Sapete come hanno titolato, come ne hanno approfittato ovviamente, per esempio il giornale, Monti si costituisce, oppure Libero, reo confesso, e c'è la foto di Monti. Vabbè, gli altri giornali aprono, che ne so, il Corriere, così il nuovo redditometro, il Monti CGL scontro sulla crescita per Repubblica, mentre il Sole 24 Ore un credito d'imposta per le infrastrutture. Ma io intanto vorrei fare questa domanda. Luca Dini, un presidente del Consiglio che ammette, sempre col suo modo compassato, il suo modo sobrio, a dire sì, effettivamente credo che abbiamo contribuito all'aggravamento della crisi, ma in una battuta più lunga questo serve, è il viatico che dobbiamo fare. Va tutto bene? Cioè, che presa ha anche il significato del linguaggio? Che senso ha un presidente del Consiglio che fa una dichiarazione che presta al fianco ovviamente a molte critiche? È un presidente del Consiglio che dice la verità e non ci siamo abituati. Non ci siamo abituati a questo linguaggio da parte della politica. Quello che lui dice è evidente, io credo che i cittadini lo capiscano e sostanzialmente ci credono. La politica lo strumentalizza perché è un corpo estraneo, è un linguaggio che non gli appartiene. Non si dovrebbe dire, cioè nel senso ci sono delle cose, ma ci sono delle cose che forse sono giuste, ma è bene che un politico non le dica in maniera così esplicita, oppure è bene così, è giusto che dica: cari italiani, qui lacrime e sangue adesso, ma ci abbiamo messo anche il nostro a fare questo, per fare questo, ma dobbiamo passare da qui, è la nostra croce da portare. Secondo me, anche perché di tutti quelli che hanno criticato l'operato di Monti negli ultimi mesi, io non ho visto in realtà delle controproposte costruttive su quello che si poteva e si doveva fare meglio. E quindi è giusto così. Paola, qua anche tu che ti occupi ogni giorno anche della crisi, certo. la tocchi con mano, no? Parlando con i tuoi ospiti, qui c'è un Presidente del Consiglio che ci mette di fronte a un'evidenza, cioè dobbiamo passare attraverso questo, rassegnatevi cari italiani. Guarda Alessandro, sì, concordo con il direttore su una linea, questo è il coraggio dell'impopolarità, lo potremmo chiamare così. Metaforicamente parlando, visto che insomma sei un esperto, un appassionato di pallone, c'è un campionato da vincere a tutti i costi, le metodologie possono essere anche le più dure, le più complesse anche da capire, però devono portare ad un risultato finale. Sicuramente noi l'altro giorno eravamo nel corso della diretta con il nostro Nicola Veschi davanti agli uomini dell'Alcoa, che dico davanti perché eravamo proprio lì a sentire, ad ascoltare, come era ovvio, le loro ragioni, ragioni di una situazione difficile che rappresenta altre situazioni difficili nel nostro paese. È un momento di attesa e di lavoro insieme. Sicuramente Monti ha avuto come dire, la faccia di sottolineare anche questo, ecco, sì, in forma diversa rispetto al solito, ma ci stiamo abituando anche a questo nuovo modo, finché sarà nuovo, fino a che non arriveranno le nuove elezioni, quindi insomma ci sarà tutto il cancan della politica che correttamente tornerà a fare il suo lavoro, non è che abbia smesso, sì. Continua anche in questo periodo, però ecco, è stato coraggio di impopolarità. Ma infatti, ma cosa sarà questa, una parentesi quella di Monti? Monti ha detto sono transeunte, su questo transeunte dobbiamo, perché sbuffi? Ma Io non ci scommetterei. Cioè però... rimane Monti, o in qualche forma? Forma, detto così, sembra un Quirinale, che cosa. Chi lo sa, forse sì, sicuramente, non so quanto forse chi gli sta intorno possa essere d'accordo nel vederlo ancora così ingoiato da questa grande macchina che poi diventerà la grande macchina delle elezioni politiche, però la sensazione è quella di un uomo che difficilmente si allontanerà dalla politica, è pur sempre un senatore a vita. Infatti. No, ma io vorrei sapere da Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che tra l'altro per lunga parte della sua vita, ha vissuto anche in America, questa cosa sarebbe possibile? Diamo uno sguardo anche ampio, visto che c'è la corsa alle presidenziali americane. In America un presidente parla così o un candidato presidente parla così, cioè a cuore aperto, dicendo la verità, oppure qualche frase che magari può apparire scomoda, può anche essere edulcorata, diciamo così, o nascosta addirittura? Ma abbastanza, devo dire che Obama ci ha abituato abbastanza a parlare così, più dei suoi predecessori e sicuramente più dei politici italiani. C'è una certa tendenza al coraggio dell'impopolarità, che peraltro è anche una mossa abile di strategia politica, perché sempre di più i cittadini non credono ai messaggi edulcorati e sempre di più apprezzano un certo coraggio di dire le cose come stanno. Dici così, di sapere come stanno le cose, capito? Cari ascoltatori, tra l'altro i vostri sms al 349-238-6666, anche se la realtà è dura, è bene che qualcuno ve lo dica in faccia, insomma, la traduco così. Io però, al di là della crisi, vorrei parlare di qualcosa di un po' più... Ma mi verrebbe da dire leggero, ma in realtà leggero non è, perché è un tema che rischia di diventare uno dei temi più importanti della campagna elettorale. Uno dei temi è quello della questione dei diritti civili, le coppie, le unioni omosessuali, perché... Allora, intanto rispolveriamo il Niki Vendola che ha detto, no? Che ha detto ho un sogno alla mia età, quello di sposare il mio compagno. Tra l'altro ricordate sempre che l'ha detto davanti a Rosy Bindi alla festa del Partito Democratico, quindi un'uscita certamente non casuale. Sentiamo Niki Vendola, quello che disse. Siccome Pax era troppo il modello francese, si è inventato un altro acronimo, IDICO. Badate, tutto fatto con grande coraggio da chi lo ha fatto, ma quel grande coraggio non contemplava la mia vita, nel senso che io non voglio stare dentro un acronimo, voglio poter dire che a 54 anni mi voglio sposare con il mio compagno. Allora, mi voglio sposare col mio compagno. Oggi su Vanity Fair Niki Vendola dice voglio sposarmi. Cos'è che dice il direttore? In chiesa, sogno il prete che mi dica finché morte non vi separi. No, questo è troppo, dai. Addirittura in chiesa, cioè vuol sposarsi e non ci sono i matrimoni omosessuali e vuol farlo davanti a un prete. Beh, lui parla di un sogno chiaramente, però quello che dice sostanzialmente all'obiezione che sempre viene posta, cioè non basta una legge sui diritti delle coppie di fatto, e lui dice che il matrimonio da sempre è soprattutto un momento di assunzione di responsabilità di fronte alla comunità. Quindi una promessa d'amore che viene fatta davanti a tutti e viene celebrata e festeggiata da tutti. Ho capito, ma da un prete, cioè, da un prete in chiesa, cioè va bene tutto, sì. Nel senso, quale prete sposerebbe mai davanti all'altare due una coppia omosessuale? Beh, insomma, ci sono altre confessioni religiose che ci sono arrivate. Io non sarei così, sono abbastanza possibilista sul fatto che succeda in tempi molto lunghi, molto lunghi. In tempi molto lunghi. Paola, ti sembra un'uscita? Perché Nicky Vendola insiste su questo punto? Quello è stato il coraggio della rivalità. Davanti a Rosy Bindi. Ma infatti. Posizionato lì, se ne è uscito dicendo non voglio vivere dentro un acronimo. Quanto vorrei avere uno zoom della telecamera che inquadrasse Rosy Bindi con primissimi piani al momento dell'uscita di Vendola. In quell'istante. Quelle sono parole che vengono dette mediaticamente per tutti, ma in quel momento colpiscono l'uditorio e di conseguenza PPP, primissimo piano, no? Certo, cioè, però Nicky Vendola oggi fa un passo ulteriore, cioè lo dice, lo voglio fare con le parole del prete finché morte non vi separi davanti all'altare. No, questi sono dei ponti lunghissimi che si cominciano a costruire, che chi lancia sa che probabilmente negli anni, nel tempo, non potrà vedere in prima persona la fine. Questo ti sta dicendo 100 anni di vita a Nicky Vendola, insomma, sono delle operazioni complesse perché la speranza, come dice il direttore Dini, è quella. L'idea che altri siano arrivati c'è, però è un'operazione lunga di grande impegno, sicuramente dire voglio qualcuno che mi dica finché morte non vi separi, amo il mio compagno e voglio vivere con lui. È un diritto, su questo non ci sono dubbi. Sapete però arrivare al parroco, però che sposi, al parroco, sì, effettivamente. Paola, è chiaramente una provocazione la sua, certo. Però io penso che quello che lui voglia sottolineare soprattutto, perché poi spesso viene fatto il discorso, ci sono altri problemi nel paese di cui occuparsi, cose più importanti. No. E invece i diritti civili poi non solo non tolgono niente agli altri, ma in un certo senso, guardandosi intorno, i paesi dove i diritti civili sono più riconosciuti sono anche i paesi direttore, quando la motivazione è ci sono cose più importanti e si passa sopra ai diritti civili, si vive in un cattivo paese. No, ma infatti questo i è sbagliato. I diritti civili vengono prima. No, dire infatti no, ma parlate del lavoro, di altre cose, ma si parla anche del lavoro, ma questi sono argomenti invece importanti anche nel nostro bar del mattino. Ma sapete cosa ha detto Ignazio La Russa su questa cosa di Vendola? No, vi tengo con un attimo di sospense, ve lo dico tra un attimo dopo le informazioni sul traffico, come Ignazio La Russa ha commentato questa uscita di Nicky Vendola sul matrimonio e anche sulle possibili adozioni alle coppie omosessuali. Urban Forum è diventato un mito, il presidente della provincia di Napoli Cesaro, come pronuncia il World Urban Forum? Le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del Era inevitabile diventasse un tormentone su YouTube, ma Luca Dini e Paola Saluzzi, ma vi rendete conto il presidente della provincia di Napoli? Come è ma vogliamo risentirlo come pronuncia? Urban Forum. Non ci posso credere. È troppo bello, voi siete troppo simpatici. Io siete la mia donna. Pensa di buon umore e di pensiero. Sì, pensa come ci vuole bene il presidente della provincia di Napoli in questo momento. Insomma, no? Però può succedere di pronunciare male, tenuti a pronunciare bene a tutti i costi tutto, insomma. No, per carità. Si ingrippa un po' la lingua. Era in conferenza stampa, c'era a fianco Caldoro, il governatore della Campania, non ha fatto una piega, no? Come se immobile. Ci saremmo potuti trovare pure noi in una condizione così. Poi io sono una sorrentina di adozione. Eccola lì. Vabbè, la comunque di internet, però, perché c'è, bisogna dare un premio a chi ha fatto quella. No, ma infatti facciamolo risentire un attimo, perché voglio dire, questo rap che sta diventando un tormentone adesso. le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del A un certo punto in un'intervista il presidente Cesaro, siccome doveva ripronunciarlo, sapete che ha detto? Noi ospiteremo il WUF, è disperata, ha detto il WUF, lo chiamo così e si capisce. Vabbè, comunque vorrei allora dirvi che cosa ha dichiarato Ignazio La Russa quando ieri Nicky Vendola ha parlato delle coppie omosessuali e anche della possibilità di adozione dei figli. Udite bene, a Vendola, che dice che non conta essere figli biologicamente ma che è solo una questione culturale, dico che Mazzola è diventato un campione perché era fisicamente e non solo culturalmente un Mazzola, cioè Sandro Mazzola, figlio del grande Mazzola. Cioè, Luca Dini, qui siamo alla riabilitazione della prevalenza genetica. Oggi Gramellini, in prima pagina della stampa, fa un commento a dire cose che si sentivano più o meno 70 anni fa. Cioè, è un po' pericoloso questo discorso a dire si è figli biologicamente perché si tramanda qualcosa. Questo è vero, biologicamente si tramanda. Però che senso ha questa dichiarazione di La Russa? Beh, diciamo che mi avrebbe deluso se non avesse detto quello che ha detto, perché è esattamente quello che mi aspetto da lui. Non credo che abbia stupito nessuno. Sono parole brutte, perché significa, per esempio, che un figlio adottivo è qualcosa di diverso da un figlio biologico. E credo che per chi vive quella realtà sia una enorme castroneria. No, ma devo dire che è chiaro che biologicamente si tramanda, non lo scopre Ignazio La Russa, non lo scopriamo noi questa mattina, però non so, Paola, tu capisci il senso del voler sottolineare questa cosa? Cioè, un campione come Mazzola è un campione perché è nato da un altro campione di calcio, vale dire Valentino Mazzola. Ma c'è anche il fatto che i padri passano anche molti difetti ai figli biologicamente, insomma, voglio dire, ci sono padri di una certa natura e figli che sono ancora peggio, e quindi questo si potrebbe leggere anche come un'arma a doppio taglio. Diciamo che è esploso l'interista che è in lui. Sì, è esploso. A proposito di interista, oggi mi ritrovo... mettiamolo, quel buon Ignazio è esploso, il vero autentico interista. Il vero audendico. A proposito di calcio, io mi ritrovo in prima pagina di Vanity Fair Boateng. Gli avete chiesto, direttore, anche se pensa di tornare a giocare a calcio? Tra le varie cose. Sbaglio, c'è un milanista da questa parte. Ma non lo so, no, così, ultima domanda dell'intervista, cioè, per carità, lui e Melissa Sata, lunga vita, bellissima coppia, eccetera, però magari ogni tanto, no? No, lui è molto, devo dire, addirittura siccome abbiamo fatto delle foto, chiaramente non si era ancora fatto male alla mano e ha detto, per carità, scrivete che le foto sono state fatte prima, perché se i tifosi pensano che mi sono tolto il gesso per le foto, cioè che non gioco, certo, e invece poso per delle foto, mi uccido. Sembra abbastanza consapevole. No, ma adesso scherzi, io dico, è uno dei pochissimi campioni che ci sono rimasti, quindi teniamocelo stretto. Comunque è in prima pagina di Vanity Fair oggi. Vabbè, io vi devo salutare, vi devo ringraziare, e c'è da dire una cosa sul giornale, se volete, a pagina 17, non so se vi interessa, però sappiate che in Canada hanno scoperto l'equazione del divorzio perfetto. Praticamente, per evitare quelle guerre di divisione eccetera del patrimonio, basta così: calcolate la differenza di reddito tra i coniugi, individuate una cifra che va dall'1,5 al 2% di quella differenza, moltiplicatela per ogni anno di coabitazione fino a un massimo di 25 anni e saprete quanto vi può aspettare dalla fine del vostro matrimonio. Chiaramente a quest'ora non avete capito niente di questa formula, solo che agli avvocati non farà piacere. No, però in Canada pare applicata, cioè fate la differenza tra i due redditi. Lì fa freddo, hanno tutto l'inverno per pensare a queste cose. Fate 1,5% di questa differenza, la moltiplicate per gli anni di convivenza e questo è quello che vi spetto. Se vi va bene così, se no intanto grazie. Paga Nicole Minetti, come avete sentito, dunque caffè gratuito. Vi ringrazio molto per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie, Alessandro. Grazie buon al lavoro, direttore. Buon lavoro, direttore. Buon lavoro all'Alpino. Buongiorno, Paola. All'Alpino, Peter Bescapè. Grazie a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e grazie a Paola Saluzzi.

dice chi se ne frega, tanto non è un mio alleato, però il dato di fatto è questo. Ieri lei insieme a Bonelli, insieme soprattutto a Di Pietro e Vendola, cioè i due alleati di Bersani, avete depositato un quesito per due quesiti referendari sull'articolo 18.1, insomma sul tema del mercato del lavoro in Cassazione. Per quella foto davanti al palazzaccio, racconta Repubblica in un retroscena, Bersani è già infuriato. Perché Bersani sbaglia, con Berlusconi e Casini ha contribuito alla demolizione dell'articolo 18, che invece abbiamo sempre difeso in questi anni, e sbaglia ad arrabbiarsi, perché invece se fosse ancora di sinistra il PD dovrebbe appoggiare un referendum come questo. Cioè Bersani non è di sinistra secondo lei? Io penso che quando si partecipa ad un governo in cui si fanno stangate sulla popolazione, si aumenta l'età per andare in pensione nonostante le casse dell'Ips siano in attivo, si toglie sostanzialmente l'articolo 18 e si contribuisce a determinare una recessione, perché questo sta avvenendo, cioè le manovre di Monti non solo peggiorano i conti pubblici invece di migliorarli, ma stanno aggravando la recessione. Io che cosa ci sia di sinistra in questo non l'ho capito. C'è una cosa sinistra nel senso sinistra brutta non una cosa di sinistra che fa paura, una cosa esatto. Bersani è di sinistra nel senso è sinistro più che di sinistra, possiamo dire così. Il governo Monti è sinistro, diciamo così, è una cosa grave. Senta, intanto vorrei capire questa cosa, ma il referendum, visto che non si può fare nell'anno delle consultazioni, cioè perché voi mi spieghi tecnicamente perché voi raccogliete le firme per fare il referendum, penso l'anno prossimo, no? Però non si può fare il referendum quando si vota. Noi sostanzialmente raccogliamo le firme e le firme inizieranno ad essere raccolte nel mese di ottobre. Sì. Verranno quindi consegnate nel mese di gennaio e quindi il referendum finirà nel 2014. Ah, ecco cioè, perfetto, cioè quindi sarebbe per il referendum per il 2014. Ci sì. Spieghi concretamente che cosa volete con questo referendum? Ripeto, lei, Vendola, certo. Di Pietro, Bonelli dei Verdi, la FIOM e altri, insomma. Sì. Ma intanto la prima cosa è che essendo che andranno nel 2014, questi referendum saranno un modo per interagire sul prossimo governo, perché tutti si stanno preoccupando, quando dico tutti intendo i banchieri, molta parte dei giornali italiani, l'Unione Europea, si sta preoccupando che si continui esattamente sulla linea di Monti anche dopo le elezioni. Sì. E noi ci preoccupiamo che non si continui sulla linea di Monti dopo le elezioni e cerchiamo di farlo in uno dei modi possibili, cioè che il popolo italiano possa interagire attraverso un referendum. Quindi nel 2014 ci saranno questi due più altri. Sì. Questi due sono il primo sostanzialmente per ripristinare l'articolo 18, sì. Cioè il fatto che se ti rubano la macchina la polizia te la deve restituire, se la il reintegro, cioè il reintegro cioè, nel posto di lavoro, voi volete questo. Se ti licenziano ingiustamente e il giudice lo verifica ti deve ridare il posto di lavoro. E l'altro cioè l'indennizzo invece, non basta, l'indennizzo come si no, vuole. Perché no, perché in no. Una situazione in cui ci sono milioni di disoccupati, a una persona di 40 anni o 50 anni il fatto di avere un reintegro di 10 mensilità non serve semplicemente a nulla, perché non saprebbe comunque come trovare un altro posto di lavoro. E il secondo referendum? E sottolineo che si tratta del reintegro se il licenziamento è ingiusto, sì, o certo. Ingiustificato, quindi che non c'ha ragione. Se il licenziamento ha ragione di esistere, c'è il licenziamento, buonanotte. Il secondo abolisce l'articolo 8 della manovra finanziaria del governo Berlusconi dell'ultima estate, quando fece un'operazione che disse, nella sostanza anche qui, che la contrattazione aziendale poteva scendere al di sotto sia del contratto nazionale di lavoro che delle leggi dello Stato. Mm. E perché? Questo è pericolosissimo, perché di nuovo in una situazione in cui c'è una grande crisi occupazionale, lei capisce che può succedere che in un'azienda il datore di lavoro dica: o voi mi accettate di lavorare in queste condizioni, sì, e me lo firmate e mi fate un accordo. Cioè, secondo lei si presta a ricatti? Si presta a ricatti. È una norma fatta apposta per i ricatti, altrimenti dice, non ha nessun senso. Però, una norma che dice che si può andare in peggio rispetto alla legge, è una norma, è come se lei dicesse fuori dalle aziende che in qualche comune italiano si può andare in peggio delle leggi, cioè magari il consiglio comunale può decidere che la mafia può far pagare le tangenti. Questa roba qua, se detta fuori dall'azienda, è una cosa che tutti capiscono che è una follia. Questi sono è la stessa follia. Questi sono i due punti del referendum. Però ieri vorrei sottoporre quello che ha detto il ministro Fornero, che era ospite di Lilli Gruber sulla 7. Ha detto, riguardo per esempio all'Alcoa: dobbiamo smettere di pensare di sostenere dei posti di lavoro che non siano più appunto sostenibili. Cioè, lì per esempio si è mantenuto posti di lavoro e la politica ha sbagliato in passato con sussidi di Stato per una produzione energetica che effettivamente non è una produzione energetica sostenibile nei costi, non conviene. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comunque mantenere posti di lavoro oppure creare, e questa sarebbe la buona politica, dei posti di lavoro per una produzione sostenibile? Ma guardi, se il governo Monti e il ministro Fornero fossero impegnati a creare posti di lavoro da qualsiasi parte, di qualsiasi tipo, la discussione avrebbe un qualche senso. Essendo che il governo Monti e la ministra Fornero non sono impegnati per nulla a creare nessun posto di lavoro, l'unica cosa che hanno fatto è di distruggerne un po' di centinaia di migliaia, io non capisco che senso abbia la discussione. Scusi, ma lei ha questa posizione? Ma secondo lei il ministro Fornero... No, ma non è la mia posizione. Sono aumentati i posti di lavoro. Ma lei sta dicendo... Allora... No, ma lei ha detto una cosa diversa, cioè che il governo Monti e la ministra Fornero lei non ha usato questa parola, ma quasi godono a distruggere i posti di lavoro. No, io non do un giudizio morale, io faccio semplicemente un'analisi. Quando un governo produce una recessione di 2,5 punti, perché la recessione italiana, tolta la Grecia, è la più alta ed è indubbiamente c'è un legame con le misure prese dal governo, l'ha dovuto ammettere anche Monti 2 giorni fa, io sono 6 mesi che lo sostengo. Quando fa una recessione di quel tipo, non è che non produce anche distruzione di posti di lavoro, perché se il PIL scende di 2,5 punti, scenderà l'occupazione almeno di altrettanto. Allora, la politica del governo, intanto diciamolo, è finalizzata, oggi questo stanno facendo, a aumentare la recessione e demolisce posti di lavoro. Secondo, in giro per il mondo... esistono normalmente delle politiche di sostegno alle imprese che cerchino di salvaguardare produzione, di farne altro, oppure no? A me pare di sì, non c'è mica nessuno che si scandalizza se Obama negli Stati Uniti in Chrysler mette un po' di soldi, magari perché adesso lei ha fatto l'esempio della Chrysler, magari perché ha un prodotto che è appunto sostenibile, cioè è giusto sostenere delle produzioni, come dire, che sono perdenti sul mercato interno internazionale, ecco, per salvaguardare posti di lavoro che, per carità, cioè, sono importanti. No, ma guardi, se Obama sostiene la Chrysler è perché la Chrysler avrebbe qualche difficoltà a sostenersi da sola, diciamo, perché altrimenti non si spiega la cosa. Ma nel caso specifico noi ci troviamo davanti a una situazione che vede l'Alcoa, cioè un'azienda che produce alluminio, che è una produzione strategica, perché l'alluminio è una delle materie più riciclabili che esistano, e il fatto che in Italia si produca dovrebbe essere un interesse, se uno fa a cuore, diciamo, la situazione italiana anche dal punto di vista strategico, cioè del fatto che l'Italia, non dico sia autosufficiente, ma insomma abbia gli elementi di base. Allora, il mantenimento in vita di un'azienda che ha come problema principale il costo dell'energia elettrica, perché è un'azienda energivora, che guarda caso c'ha un'altra azienda, l'Euroallumina, che è appiccicata all'Alcoa, e che se chiude l'Alcoa chiude anche quella, che guarda caso era pubblica e che è stata quasi regalata ai privati negli anni scorsi, adesso i privati la chiudono, e che vicino a pure una centrale termica dell'Enel. Io sì. dico, a me pare che in uno Stato che cerchi di guardare anche al futuro del paese e quindi che veda una differenza tra trasformare un territorio come il Sulcis in un deserto oppure mantenere posti di lavoro, a me pare che lì fare un piano industriale integrato serve. Che tenga assieme l'energia, il mantenimento delle aziende, i posti di lavoro, ripeto, lì non stanno producendo bombe atomiche, sì, no, no, ma è un qualcosa di strategico. Alluminio, che Senta. È una delle cose su cui ad esempio dovremmo anche sviluppare la raccolta differenziata, perché io se fossi al governo penserei a come diavolo si fa un A proposito di governo, ma lei vuole tornare in politica, cioè nel senso voi, lei a cosa punta? Le chiedo questo, lei fa politica da quanti anni più o meno? Attiva, non tanto da quanto tempo? In Parlamento io ci sono stato un anno, no, sì. un mese solo, un mese solo. Però fa politica da quando c'ho 17 anni, ecco. Che effetto le fa vedere 51, che, 51 fa fatica, ecco. Che effetto le fa vedere che Beppe Grillo in 5 anni con un blog arriva forse al 15-20%? Ma Beppe Grillo ha diciamo così, interpretato al meglio dal suo punto di vista quello che è il senso comune. Il senso comune è la politica fa totalmente schifo e lui dice il vaffa e si candida a rappresentare questo. E lei che fa da 34 anni va a incontrare io i lavoratori. Un po' più complicato, però c'è quanto? Un po' più complicato perché invece penso che solo col vaffa non si va da nessuna parte, perché è già successo altre volte, diciamo da Giannini in avanti, o l'uomo della provvidenza si è già visto altre volte in Italia. La mia opinione è che il problema un po' più complicato è che per riuscire a cambiare le cose non basta dire il vaffa, ma anche avere delle proposte e dei percorsi. È solo che lui è forse il 15-20% e voi state, che ne so, al 3%. No, esattamente, ma le faccio un esempio, perché io penso che la politica sia anche, non sia semplicemente rappresentare quello che i sondaggi dicono essere l'umore maggioritario della gente, ma sia anche provare a cambiare cosa pensa. Ad esempio, un minuto fa le ho detto, secondo me nel Sulcis è necessario un intervento pubblico che mantenga le attività produttive, i posti di lavoro. Quando io penso che questo sentimento oggi in Italia, l'idea dell'intervento pubblico non sia maggioritario. Sì, no, perché, credo proprio, perché, credo proprio di no. Esattamente, così come io penso che per evitare lo strozzinaggio delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti da parte delle banche che usano i loro soldi per investire in speculazione, ma certo se li prestano a tassi da usura per le piccole imprese, per i commercianti. Per evitare questo, ad esempio, io penso che sia necessario trasformare la Cassa dei Depositi e Prestiti in una banca pubblica. Cioè lei porta avanti delle battaglie che sono magari che non sono premianti dal punto di vista del consenso, non sono popolari, però questo è il suo modo di fare politica. E le dico perché? Perché io penso che la politica non sia semplicemente il registrare cosa pensa la gente in maggioranza e cercare di candidarsi a vendere il proprio detersivo. Ah no, vuol dire anche credere in alcune ideologie. Essendo che le politiche che stanno facendo adesso, cioè quelle che producono disoccupazione, sono le stesse che hanno fatto negli ultimi 30 anni e che ci hanno portato a questa crisi. E queste politiche che producono disoccupazione sono quelle che nel secolo scorso, nel 29, nel 30, nel 31, in Germania hanno prodotto 5 milioni di disoccupati e poi la vittoria di Hitler su quella base. Io sono un po' preoccupato avendo dei figli. Addirittura, se rischiamo di andare con Hitler, secondo lei, no, arriverà un possibile? Io penso che la storia non si ripete mai negli stessi modi. Però l'ha fatto lei il paragone, no? Sì, voglio dire, sì, siamo no, in un no, contesto che qualche anno fa portò a Hitler, ecco, questo sto dicendo. Il contesto è questo, e quando in una società la disoccupazione inizia ad aumentare ai ritmi a cui sta aumentando, la gente inizia ad avere delle difficoltà ad arrivare alla fine del mese, come sta accadendo, guardiamo la Grecia, si vede un disastro sociale non piccolo, molto grande. Allora, essendo che io penso che il compito della politica dovrebbe essere quello di trovare le strade attraverso cui migliorare le condizioni di vita della gente e permettere che le conquiste che la scienza, la tecnica ha fatto, sì, siano utilizzate per questo, io semplicemente intanto esprimo la mia indignazione che invece queste enormi conquiste sono usate per l'arricchimento privato di qualcuno e fanno stare malissimo tanti altri. In più l'uso e dal mio punto di vista l'ignoranza di questo meccanismo produce esattamente la crisi, perché mi faccia dire questa crisi non è mica una crisi di scarsità, non è che c'è una siccità in giro, non abbiamo raccolto il grano e la gente deve tirare la cinghia perché non c'è da mangiare. Questa crisi è una crisi in cui l'eccesso di ricchezza è troppo mal distribuito. Ah, è una questione di redistribuirlo. E beh, certo, perché c'è una parte di società che non sa cosa farsene dei soldi e investe in speculazione finanziaria, cioè in cose improduttive, e dall'altra una maggioranza della popolazione che ha difficoltà a arrivare alla fine del mese. Io però mi devo fermare qui, Ferrero. Intanto la ringrazio perché deve andare in pubblicità. La ritroveremo presto. Intanto in bocca al lupo ovviamente per questo referendum e chissà poi se ritornerà in Parlamento. Grazie Paolo Ferrero di Fondazione Comunista. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi avremo ospite l'insegnante oggi in pensione, quella che fece scrivere a un ragazzino, un bullo che aveva preso in giro un compagno di classe a 12 anni dandogli del gay e della femminuccia, sono un deficiente 100 volte sul quaderno. È stata per questo condannata in via definitiva a 15 giorni di carcere, giorni che non sconterà mai, viva Dio. Ma che ne pensate di questa punizione? Ha sbagliato, ha esagerato con questa punizione troppo severa, a far scrivere solo, umiliando questo ragazzo che poteva aver fatto qualcosa di sbagliato, ma facendogli scrivere solo un deficiente 100 volte sul quaderno? Oppure è esagerata questa condanna, 15 giorni di carcere, per un insegnante che ha voluto con un metodo magari un po' duro, sbrigativo, ma cercare di educare un ragazzo che aveva sbagliato nei confronti di un compagno? Alle 8:36 minuti, proprio nei giorni in cui si aprono moltissime scuole italiane, inizia l'anno scolastico, è con noi, io la ringrazio, e parla l'insegnante che è stata protagonista di quell'episodio che affonda le radici nel 2007, ma che si è concluso di recente con la sentenza di Cassazione. È stata condannata a 15 giorni di carcere per avere abusato, abusato nelle sue metodi di correzione nei confronti di uno studente delle medie, perché di fronte a un atto di bullismo di questo ragazzino ha fatto scrivere sul suo quaderno «sono un deficiente per 100 volte». Per questo è stata condannata, ripeto, in terzo grado di giudizio, Cassazione, a 15 giorni di carcere. Parla con noi oggi e la ringrazio, la saluto, Giuseppina Valido. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oggi, professoressa in pensione, quanti anni ha insegnato? Ha fatto tutto il suo iter scolastico da docente? 37 anni che sono nella scuola, sono stata nella scuola. 37 anni. Dal momento della laurea fino al 2010. Fino al 2010. Con lei c'è anche qui ai nostri microfoni il suo legale, l'avvocato Sergio Visconti, che saluto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Che ha seguito ovviamente il suo iter. Allora, ho talmente tante domande, come immagino, guardi, lei non sa già i centralini che chiamano, i messaggi al 349-238-6666, gente che ci scrive, ha fatto bene, la professoressa le faccia mille complimenti da parte nostra, gente che dice no, ha esagerato. Allora, non dobbiamo ricostruire il processo, intanto una certezza, lei questi 15 giorni di carcere non li farà mai, voglio sperare. No, non li faccio, ma il problema... Sì, non li faccio, quindi dico, ma il problema è questo, a parte che volevo fare una correzione, se lei mi permette. Prego. Lei ha detto che sono stato fatto scrivere, sono un deficiente, io non ho fatto scrivere, sono un deficiente, io sono non è che ho inveito contro il ragazzino chiamandolo sei un deficiente, ho detto sei deficiente, perché la mia... Che differenza c'è? Cioè un deficiente, ma sei deficiente. Un deficiente. Sono deficiente nel senso deficitario, manchevole, mancante di qualche cosa. E come avevo spiegato in quella situazione, perché mentre i giudici credono al genitore dicendo che io abbia inveito contro questo ragazzino, chiamando, prendendolo per idiota, così è scritto nel cretino, e io non avrei mai... Dice, lei non ha mai insultato, non ha mai insultato. E lo dico, lo sto dicendo pubblicamente, quindi molte persone che mi conoscono magari mi ascolteranno, quindi lo sanno, e non ho timore di poter... di dire questo, perché non è stato mai così. Ma questo, professore, se vuole sono tecnicismi che poi io ho detto, se manchevole di comprensione, e l'ho fatto scrivere, gliel'ho fatto capire, l'ho fatto leggere, se mi permette, anche perché vedo che nella sentenza che è stata ci sono proprio delle contraddizioni. Io innanzitutto ho fatto scrivere quella frase, nel bene e nel male, quella mi è venuta in quel momento. Me la dice esattamente com'era la frase che lei ha fatto scrivere? Allora, fate scrivere, sono deficiente. Sono deficiente, 100 sì. volte però gliel'ha fatto scrivere. È un modo di dire, scrivi 100 volte, sai, in quel momento quando un bambino viene, ti viene a dire sono stato oggetto di pressione, di vessazione da due miei compagni insieme ad altri compagni di altre classi, non solo il giorno prima ma anche il giorno dopo, per due volte di seguito, il ragazzino aveva bisogno di dirlo a qualcuno e ha pensato di dirlo a me, che come insegnante di quella classe dove che stavo per un maggior numero di ore, e poi siccome sono sempre stata attenta sempre alle loro richieste, alle loro problematiche, qualunque cosa loro potevano dire liberamente, potevamo parlare e discutere serenamente. Mi faccio ricostruire, poi diciamo, per sommi capi la vicenda è questa, due ragazzini di 12 anni prendono di 11 anni. Il discorso, mi scusi, è avvenuto nel 2006. Certo, nel 2006. Il giorno 26 gennaio, era un sabato. Perfetto, due ragazzini di 11 anni prendono di mira un compagno, gli impediscono di entrare al bagno dei maschi dicendole tu sei un gay e una femminuccia. Questo mi viene riferito dal ragazzino. Questo viene riferito dal ragazzino. Accettato anche da loro, siccome io, come ho già detto sin dall'inizio di questa causa, la settimana prima era successo un altro fatto del genere, dei ragazzi avevano non permettevano ai ragazzi di andare in bagno durante l'ora di ricreazione e avevano tenuto per un paio di ore il corridoio dove c'erano le mie classi sotto assedio, non facendo uscire i ragazzini. Insomma, questo fatto. Quindi lei ha voluto, le è stato raccontata questa cosa. Lei è stato raccontato, quindi mi sembra che sia una cosa grave. No, no, ma certo, è una cosa grave. Atti di bullismo. Non mi sono mai voltata dall'altra parte, anche perché la mia funzione era quella di fare sì che i ragazzini venissero a scuola serenamente e tranquillamente e ci correggessimo tutto, perché tutti abbiamo bisogno di correzioni nella relazione reciproca di alunno, insegnante, alunni. E loro ha preso questa iniziativa. Abbiamo discusso insieme ai ragazzi. Mi faccia dire questo, professoressa. Lei a uno di questi ragazzini, che non ha chiesto scusa al ragazzino in questione, ha fatto scrivere a questo punto: sì, io sono deficiente. Sì. No, ripeto, e lei ha spiegato bene la differenza. Qual era il motivo per cui ho fatto scrivere questa perché cosa? Perché era deficitario, gli mancava qualcosa di comprensione. Sì, solidarietà, comprensione nei riguardi del compagno. Anche perché io non sapevo, quando mi è stato raccontato, che cosa dovessi fare, perché io avevo una classe che sentiva un fatto del genere, si deve prendere un provvedimento o no? Io penso di sì. Questo sì, non è un provvedimento umiliante come molti li hanno criticato. Scusi, certo, mi scusi, anche perché come affermano nella sentenza che hanno depositato i giudici, il bambino era un bambino vivace ma senza problemi disciplinari. Io invece ho preso quella decisione sbagliata o sfortunata, sbagliata. Io non sto qui più a dire più nulla di questo. Quando mi sono resa conto, a parte che questo ragazzino, come è depositato agli atti, dal mese di settembre fino al mese di febbraio del 2006 aveva note quotidianamente. Cioè, ma era un ragazzino un po' vivace. Da altri professori, mai da me. Persino la preside. Professoressa, che ci fosse un provvedimento, lei giustamente ha detto: io non mi potevo voltare dall'altra parte, qualcosa dovevo fare. E ha fatto scrivere questo. Al di là del processo, umanamente, sente di avere in qualche modo umiliato questo ragazzino? Io penso di non averlo umiliato, perché innanzitutto dopo la discussione il ragazzino ha detto: professoressa, ma per forza 100 volte le scrivere. Al che ho detto: Giuseppe, ma scrivi quello che vuoi, lo sai per quale motivo te lo sto facendo, perché tu ti renda conto che non si fanno queste azioni, bastava chiedere scusa. E quindi, dopodiché, non ho manco controllato se l'aveva scritto o meno, si immagini se era quella la mia finalità. sa perché c'è una leggenda che addirittura questo ragazzino l'abbia scritto deficiente scrivendolo senza i, è vera? Sì. Ah, quindi è vero. Io questo perché l'ho visto dopo, perché quando il bambino il 4 di febbraio mi porta quel quaderno con dove il padre aveva scritto, forse l'aveva visto il padre, gli aveva scritto: se mio figlio è un deficiente, lei è una cogliona. Solo in quel momento io ho visto scritto quello. Al padre così, allora, così ha scritto? Sì. Forse la mia colpa è non averlo denunziato, perché è gratuita sta cosa, se prima non ti viene a chiedere che cosa... Che cosa è successo? No, ma è interessante, si fermi un attimo, professoressa, perché devo dare le informazioni sul traffico, è una goccia di pubblicità, perché questo è interessante. Lei introduce un elemento che è molto attuale, lei che ha fatto tanti anni, ha passato tanti anni nella scuola, che è quello del rapporto tra insegnanti e genitori, perché molti ci scrivono: la vera colpa di tutto questo è del genitore, insomma, che si è dei genitori che si sono arrabbiati e hanno ovviamente preso questa iniziativa denunciandola. Lei addirittura ha detto, mi ha definito anche una cogliona, cioè se mio figlio è un deficiente allora lei è una cogliona. Però è interessante il rapporto genitori insegnanti, che a detta di moltissimi si è incrinato negli anni, è venuto a mancare quell'unione, quella solidarietà che c'era tra queste due componenti fondamentali della scuola, la scuola e la famiglia. Da qui ripartiamo tra un attimo dopo il traffico. Allora, eccoci qua, con noi c'è la professoressa Giuseppina Valido, che nel 2006 fu protagonista di questo episodio, è stata condannata in via definitiva a 15 giorni di carcere per avere abusato dei mezzi di correzione, ha fatto scrivere "io sono deficiente" a un ragazzino di 11 anni che aveva compiuto un atto di bullismo e si era rifiutato di chiedere scusa. Professoressa Valido, io le chiedo, ecco il rapporto ma è insegnanti-genitori. A proposito di quel rapporto di genitori-figli, sì. Lei deve sapere che io avevo chiesto al ragazzino, proprio perché volevo farlo risolvere il problema, non con una nota scritta, far riunire il consiglio di classe, visto che il ragazzino aveva delle note e persino una nota della preside, ma io avevo detto: fai venire il papà, perché così le discutiamo insieme. E il papà è venuto? No, il papà non è mai venuto. È passato a via legale. Il papà è venuto semplicemente quando il giorno 4 di febbraio il bambino mi porta quel quaderno dove io ho detto, papà aveva scritto quella frase, e ho detto: senti, e io siccome stavo facendo lezione non sapevo cosa fare, mi sono sentita, dico, ma che è successo? Dico, lasciami questo quaderno che controllo un pochino. E lui non me lo voleva lasciare il quaderno. Ho detto: non ti creare problemi, adesso io te lo restituisco. Siccome poi io me sono preso il suo quaderno, poi sono andata via, il papà è venuto soltanto, ed è andato poi in presidenza, a reclamare il quaderno. Senta, ma lei tutta questa vicenda che è arrivata un po' alla fine della sua carriera scolastica, no, negli ultimi anni, ha segnato in qualche modo la sua convinzione, il rapporto, la sua fiducia nella scuola, nelle istituzioni, nel rapporto scuola-famiglia? Ho l'età in cui ti sei costruito le cose in cui credi, quindi non è certo, io non appartengo a quella generazione di sfiduciati, sono quella generazione, sono degli anni 50, quindi sono invece che crede nel volere costruire, anche perché ho avuto i miei insegnanti che dicevano continuamente: voi sarete gli uomini di domani, siete quelli che sarete a capo della società di domani. Quindi io dico sempre che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità nelle cose che fa. Allora, che uno si sente tradita, si sente sola, si sente tradita e sola. Mi faccia sentire due ascoltatori. Giuliana da Vicenza ci ha chiamato all'800 24 00 24. Giuliana, lei cosa le pare sentendo la professoressa Valido che ci racconta questo episodio? Buongiorno, allora io ritengo che la professoressa abbia fatto benissimo, non bene, e che chi è da condannare sono dei genitori che hanno creato un bambino bullo, perché un bambino non nasce bullo dal mio punto di vista, può avere una predisposizione più di un altro, ma dei genitori che non sanno educare o che educano in modo sbagliato, sì, creano queste situazioni. Però Giuliana, questo è, diciamo, è un passo successivo, ma nell'episodio, cioè nel voler far scrivere io sono deficiente, allora, lei non vede, scrivere... non vede anche un, no, un gesto un po' di umiliazione? È un modo per un bambino di 11 anni di fargli in un certo senso entrare in testa quello che è veramente il danno che lui ha fatto, perché lui ha umiliato i compagni. In un certo senso è giusto se lui si è sentito umiliato nello scrivere quella frase, perché almeno si è messo nella posizione che lui ha creato del ragazzino. Grazie Giuliana. Forse se fosse stato più grande io gli avrei fatto fare un tema nel quale spiegare il perché il suo comportamento è stato da deficiente. Insomma, prendere coscienza attraverso il sentirsi nella posizione della persona che lui ha vessato. Grazie Giuliana. Lorenzo da Piacenza, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dica. Saluto ovviamente l'insegnante che ha comunque la mia solidarietà e che ovviamente non meritava certamente una pena del genere. Ha però, secondo me, commesso uno sbaglio forse in un certo senso anche più grave di quello del bimbo. Perché? In questo senso, mi spiego. Dovrebbe qualsiasi insegnante sapere che nel momento in cui si agisce nei confronti di un bambino bisogna agire su un comportamento, non sulla persona. L'insegnante, secondo me, avrebbe potuto far scrivere 10.000 volte al bambino «mi sono comportato da deficiente». Ma non neanche mezza volta avrebbe dovuto far scrivere sono deficiente. Però attenzione, qui c'è la differenza, Lorenzo, ce l'ha spiegata la professoressa, cioè non ha scritto io sono un deficiente, ma io sono deficiente, cioè ho delle mancanze. Ha sbagliato. Ha sbagliato secondo me, ci mancherebbe. Sì, sì, sì, certo. Per chi fa comunque pedagogia dovrebbe essere la prima cosa che insegnano. Sentiamo Lorenzo, le risponde direttamente la professoressa che l'ha sentito. Lei ha ragione, se continuate come hanno fatto i giudici a dire che io abbia inveito dicendo tu sei un cretino, io non ho detto questo, sono un cretino. No, però forse la differenza, l'ascoltatore dice mi sono comportato da deficiente. Forse potrebbe metterla al positivo invece che al negativo, avete ragione, ma in quel momento, in quella situazione, e l'ho spiegata, perché se io non l'avessi spiegata poi avreste anche ragione. No, ma queste, ma poi sono questioni, se vogliamo, di lana caprina. Nel contesto della classe, infatti il ragazzo non era né mortificato né niente, è continuato a venire serenamente a scuola. Quando mi incontrava, ci incontravamo, parlavamo, chiacchieravamo, è venuto tranquillamente e neanche la classe si è permessa mai di pensare una cosa. No, ma su questo, infatti, io vorrei, avvocato. Aspetti un attimo, professoressa, avvocato Visconti, che l'ho pazientemente fatto ascoltare, però non so se sono questioni di lana caprina. A me interessava anche sviscerare il lato umano della professoressa che per la prima volta ci racconta con questa bella voce questo che è stato l'episodio che ha segnato sicuramente, io credo, anche un po' la sua vita professionale, perché si è sentita delusa e tradita. Dal punto di vista legale, senza farla lunghissima, avvocato Visconti, ma su cosa si è giocata questa condanna? Cioè perché è arrivata una condanna così pesante, 15 giorni di carcere? La condanna, in base a quanto sta scritto nella sentenza, nasce dal presupposto che la frase utilizzata dalla professoressa è riconducibile a una violenza psichica operata nei confronti del ragazzino. E diciamo che è una valutazione in contrasto con le pronunce della Cassazione fin oggi, perché se violenza fisica è stata, non è un abuso del mezzo di correzione, perché la violenza non è mai un mezzo di correzione e quindi non può essere riconducibile a quella. In realtà ritengo che questa sentenza sia soltanto il frutto di un modo di pensare fatto di buonismo e di poca tecnica. Non posso pronunciarmi al di là di tanto, perché in fin dei conti io sono avvocato ed è un giudice, o meglio è una corte, certo. Quella che ha messo poi definitiva, ormai c'è poco da fare. Però devo richiamare l'attenzione sulla sentenza di primo grado, che ha ritenuto di escludere la responsabilità della professoressa non soltanto in relazione alla condotta specifica, ma anche perché ha relazionato la condotta al contesto. Come si è verificata, dove si è verificata e quando Si è verificata. Ma io, guardi, tra l'altro, siccome devo chiudere, vi ricordo che tra l'altro Melog con Gianluca Nicoletti alle 10 tornerà su questo tema. Professoressa, io ho 30 secondi. Lei si è sentita tradita, ma da chi, da cosa? Dalle istituzioni? Mi permetta di dire un'altra cosa, visto che lei mi ha fornito questa occasione, per cui la ringrazio. E i giudici mi hanno condannato dicendo che il mio, leggo dal giornale della Repubblica, costituisce abuso punibile anche il comportamento doloso che, come in questo caso, umilia, svaluta, denigra e violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute che si è compiuto con soggettiva intenzione educativa e disciplinare. Ma se io, secondo il giudice, ho umiliato e violentato psicologicamente, perché non mi hanno fatto pagare i diritti? Quando hanno scritto questo, ci hanno pensato al bambino, sì, io ho cercato di difendere. Ma lei tradita da chi? Me lo dica Flash, da chi si sente più tradita? Ma io mi sento tradita anche dallo Stato, dalla scuola, che permette ai giudici di intervenire sulla didattica della scuola. Si fermi qui e la ringrazio molto. Giuseppina Valido è la professoressa protagonista di questo episodio, Io sono deficiente, ha parlato con noi, la ringrazio davvero, così come il suo legale Sergio Visconti. Melog ne parlerà alle 10 con Gianluca Nicoletti. Grazie a Elisabetta Fusconi in redazione, con Alessandro Longoni e Peter Bescapè in regia, e noi ci troviamo domattina alle 6:30 puntuali.